tipica carne da poveri. Mi capito, capito, come fa? Eh beh, capito, io sto bene, io ho fatto uno spuntino, è come che avessi pranzato. Ehiam, il tuo compaesano si è fumato l'antenna, ha dato troppi watt e se l'è fumata. Ehi, Sandro Tigre, ha messo troppi watt, adesso l'antenna non gli funziona più, ha sciolto la bobina. Perché quella, lui deve capire che non è una mantova che regge 2 kW, quella regge 500 PEP da laterale di picco, continui, ne tiene 250 la metà, sicuramente lui gli ha dati un po' troppi in più e stava arrivando bassissimo, siccome ha fuso la bobina di rame, mi è sparito, sempre così fa. No, sono qua, calmo, calmo, sono qua, mi sono preso i pantaloni. Sono in cameretta adesso. Non è così, è completamente sbagliato. Ha caricato troppo, come fanno tutti, e finché va, diceva quello. Io d'accordo, già sono qua, non c'è problema per quello. Ehi, mi pare che c'è squadra antimafia su Canale 5, mi pare. Ciao Antonello, Basco Antonello, ciao Gavino, dai, buona visione. Ma dopo, tanto adesso sei liscio, si sente che sei liscio, può fare il pompando. Ho voglia. Sì, quello sì. Ehi, d'accordo, c'è proprio. C'è il po' che mi ha bruttato in fronte, cazzo. Sai, ho mangiato molte cose, ho bevuto, quindi poi salita l'aria, l'ho fatta in faccia, come ti meriti, e te li mangi, no, tu non te lo meriti, anzi, bene, però vedi, io sono cosciente che questa ne regge 500 PEP, quindi ne puoi dare o metà o un terzo addirittura, per sicurezza, cioè diviso 3 sono 170 watt, dai, finisci 200 anche, ma un po' meno della metà, ma caspita, perché per bruciare ce ne vuole, mi bruciare l'antenna, la venire dati tipo 300, dai 300 in su. Lo so, invece Vittore, purtroppo è così, aumentato e basta, poi i suoi sono, io ho l'antenna, grazie a Dio, come dicevi anche tu. Mi ci avevo, no, forse di più, forse 5-6 anni in antenna, è ancora intera. Io ce l'ho un anno e mezzo, l'ho messa aprile 2014, può essere, quindi aprile 2015 un anno, più settembre, aprile, giugno, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, e siamo lì un anno e mezzo. Io se tu non ho dato neanche 6 mesi, non ho dato la maniera potenza, ormai la maniera potenza è morta, se è morta, perché non c'è più quello di prima, quindi non deve avere 600 watt in casa, in stazione fissa, quello che è, in macchina, non se ne fai niente. Ma lì hai, figli, ce lo butti la bombetta e basta, cosa è quello? Non ne vuoi, figli, su, ma quel regalo che vuoi? Oppure è piccolo, Antonè, basta, solito, io ho pilotato un quad da 60, che però col filtro, fascia basso ne da 50, aumenti di 2 Santiaghi, 4x4, 16x4, siamo lì, così dai, e 2 Santiaghi grosso modo, a voglia, 10 dB non è poco, mi di incremento, che poi 2 Santiaghi dovrebbero essere 12 dB, c'è chi dice 5 dB un Santiago e c'è chi dice 6 dB, dipende. Comunque sì, adesso le linee avete, ho attaccato tutto il discorso è quello, non te ne fai più niente, il discorso è quello, come ho fatto io, il linee non ce l'ho più, sono liscio, data Dio con 5 watt quello che è, oppure se vuoi il chirurgo quello che era, uscivo con lo, lì, 50 watt ogni giorno, quello che è. Ma questo, cioè, che se ne fa? Tutti quei watt non si fa niente a nessuno a un certo punto, quindi uno c'è lì e basta. E tu che sei in alto sei avvantaggiato, però ricordati che io prima che Sandro mettesse questa antenna qua, che ha fuso, io prima da lui liscio non arrivavo. Sarà che aveva acquarelli lui, boh. E come mai io lo sentivo da liscio e lui da liscio non mi sentiva? Qualcosa c'è. Beh, a parte quello non arrivavo, quindi magari avere un Santiago 2 in più ti salva nella mia situazione, no? Se in alto, vabbè, sei più avvantaggiato. Io sì, anche tu per dire. Però, compare, non va bene, la verità. Lo sai, esci già per la liscia per dire. Basta così, a futtidini. Non è che compare 200, 600, 400, che cosa? La fusa l'antenna, ho visto la fusa, a un certo punto sta all'aglio adesso, ora vai, se la tiene e se la gratta. E vabbè, non infierire, magari mi ha aumentato di poco. Secondo me cos'è che parte prima lì? Se scalda troppo la bobina, io dico che quelle che partono prima sono le saldature, no? Perché fonde prima, la calore più basso fonde, no? Rame. C'è la carica centrale, si chiama quella lì, come la mantua d'altronde. In pratica salta la saldatura del cortocircuito, in teoria, capito? Quindi non cambia l'impedenza, il discorso è quello. Infatti lui aveva 13 stazionari, aveva con pochi watt. Vabbè, no, pompare troppo no, è un'esagerazione, ma cinquantina, ma non più che bene, per farti sentire dove non ti sentono. Da 4,50 la differenza, te l'ho detto, due Santiaghi, di così cosa vuoi? Vabbè, lo so, l'ho fatto lui. Io, grazie a Dio, ce l'ho un sacco di anni con l'antenna, quindi non ho mai sbagliato. Se un compare vado a capire l'antenna, se la piglia in culo a un certo punto, l'ho sempre detto io, non è che devo... Vabbè, cioè, a me... Di pompare non mi risparmia più la verità, non niente, perché non c'è più il divertimento di una volta, è come la penso io, quindi preferisco stare come sono e basta, se è chiuso, bastano quelli fatti che sono normali, 27, quello che cosa pompo? Che cosa? Fare col muro? Oppure fare come fanno certi? La parecchia, no, l'orologato in concessione, che comincia a casa, che c'è il primo attore, cosa genere, è un cesso quello è un cesso, cioè usando la parecchia del genere, è un cesso, ma cosa è quello? Sono d'accordo. Ma quale, il 48 turbo esamodulatore doppio elicottero? Tutti sono così, la verità. Cioè gli apparecchi modificati con un modulatore non servono un cazzo, non servono proprio a niente, il discorso è quello. Non servono a niente, sono dei cessi, capito? Il discorso è quello. Uno è avere un apparecchio bello che usi per fare gli ex e sei tranquillo, l'altro invece avere un cesso che cominci dopo il modulatore, l'effetto ecco, quello che c'è, l'eco del dicesso, quello che fai. Oh, sembra che stai vomitando in terra. Cosa cazzo te ne fai? Non te ne fai nulla. Hai capito? Il discorso è così. Io la penso così. Poi la penso diversamente, è un discorso diverso. Il discorso è... Io la penso così. Poi, non fai fare un DX, cazzo, che tu dici... Ah, sono in Sardegna. E va a vomitare. Ma stai scherzando. Io Pomponzu, avanti che è entrato, mi sembra Maurizio. Io, ciao Antonello e ciao Marco, anche io odio questi doppi modulatori, Dudley, Mac, cioè, che rie. Inquinano e basta, già è vero che escono forti, ma escono fuori in quattro canali contemporaneamente. Sì, se tu li passi all'oscilloscopio, quello ti disturba 10 canali per lato minimo. C'è roba da criminale di guerra, mi. Ma cosa è un volgare baracchino tipo questo con un amplificato? È già anche troppo. Vabbè, io parlo piano. Mi Mauri, chiedi a Antonello di quella cosa. Mi è sembrato di capire che la mantova l'ha già data. Vedi, però se io vado nel canale adiacente non sento nessun disturbo da parte tua o Marco, quindi la tua emissione è regolare, magari c'hai anche 100 watt, 200 watt, 300, non lo so, ci sono quelli che anche con 5 watt occupano 4 canali, cioè Sia la stessa stregua di chi utilizza, sei sempre fuori legge di chi utilizza lineari, però almeno utilizzi il lineare, non disturbi, nessuno ti dice niente, utilizzi 5 watt, disturbi 4 canali, 5 o quello che è una rottura di scatole. Antonè, ma la mantova ce l'hai ancora? Interrogativo. No, non ce l'ho più, la mantova mia è andata a capire il prototipo, se la verità. La usa lui, l'ho sistemata io, l'ho fatta nuova, usa lui, la verità è perfetta come antenna. L'unica cosa che mi è rimasta è la direttiva di cosa, un animatore e c'è un garage. La cosa che mi è rimasta è solamente quella, non c'ho altro. Perché frequenta la direttiva, Tonè? Non lo so, te la guardi. Forse la conosci più di me, a me me l'avevo, me l'ho regalata la verità, e quindi, cioè, la conosce Vittorio, chi la Vittorio non sa come, che direttiva è, c'è un garage io. Gli elementi quanto sono grandi, giusto per capire un po' che banda copre, se 70 cm, 2 metri, 10 metri, 11 metri, quello che è. Io ho altri elementi, la verità, la direttiva, non è che sia... Adesso vuol dire che sia 10, 20, 40, 80 la verità, adesso non te lo so dire la verità, di preciso, la verità. Comunque sia, è un altro elemento, quello che ho io. La guardi, vieni qua a casa te la guardi. E un giorno ci mettiamo d'accordo e venga a trovarti per un caffè. Gli hai detto tu, Marco, quella roba lì a lui? Sì, sì, ma Pomponio è legna verde. C'ho 4 watt del 3009. C'ho l'antenna attaccata direttamente al baracchino, perché tanto interporre watt metricosi perde solo segnale. Sì, gliel'ho detto, ma ripeto, legna verde, boh, non ho capito se ne vuole o no. E già ci mettiamo d'accordo, quello è l'ultimo dei problemi. Vabbè, ne ho approfittato giusto per i saluti, va? Me ne vado a nanna, che domani è un'altra giornata di quelle terribili. Ciao Marco, ciao Antonello, Maurizio, QRT. Ciao Mauri, poi se cambia idea, casomai te lo faccio sapere o te lo faccio sapere io. Buonanotte, buon tutto, avanti Antonè, per i saluti. Attenzione, pirati della 27. Miracoli. Guarda Maurizio, ho fatto una fotografia su Facebook della macchina che c'è attaccata con l'antenna, dietro, la verità. E me la sto vendendo, figurati tu. È nuova, se la guardi bene. Ciao Tina, buonasera, ben sentito. Buonasera, pirati della 27. Pirati la verità, sì. Una buona cosa, la verità. Merito la verità, però pirata come si deve. E non solo della 27. buonasera, vabbè, forse ci muori, stai chiudendo, buonasera. Ciao T, ciao ciao, chiudo, ciao ragazzi, buon proseguimento. A darvi la buonanotte, non è che vado a Napa, vado a guardarmi un film, riesco a guardare moltissimo, considerato che i bimbi sono già a nanna, e approfitto che sono anni senza vedere un film dall'inizio alla fine. E che film è? Non è Squadra Antimafia? Per carità, No, non lo seguo nemmeno io quello. Oggi ho guardato la TV, c'è niente di interessante, quindi alle 10:15 vengono a prendermi e andiamo un po' in giro a fare danno. No, però va bene. Do una sfogliata qua, qualche CD che ho già da un po' di tempo, gli ultimi diciamo che hanno fatto, però sempre non so che cosa c'è, insomma, sto lì a catalogare cosa guardarmi, cosa non. Vedere un pochino se nel più piccolo lo metto, se no ciccio. Va bene, dai, saluto, vi rimando, mando avanti Antonello, così aspetto i salutini e poi te lo dirà. Ci guardi i CD. Non sai quanti film c'ho io? C'ho 1100 nastri di film, figurati, non miei, no, non so tu. Che uno ha fregato, avete sì, quando abitavo in via San Donato, il poveraccio che vendeva filmati e ce l'ho a casa, figurati tu. Non ho mai visto neanche uno, figurati tu, di quei film. Ma nuovi, sono sigillati, nuovi sigillati. Ed è di tu. io da poco ho fatto una cassa grande grande, di carta di avanti, vecchio fa, che hai in polina, balle quali, ma ho videocassette, e ce l'avevo qua e non ho, no, ormai non ne guarderò più, se cercano il computer per guardare delle cassette. Grazie, una tipa che aveva un bambino piccolo e per farti conoscere, perché non avevo neanche internet, probabilmente per quello gli hanno preso. Nel frattempo ho fatto due cose, uno me ne sono liberato io e l'altro ho contestato qualcuno. Va bene, dai, ti saluto. Cioè, se no l'ora passa, poi mi metto la radio, non posso da stare qua. E la verità sto facendo anche tu vuoi, io te nel mio, perché io sono indipendente. Igolati tu. Io. Se mi bacchi, lo togli è meglio. Sera, provano 2-3, buonasera Salvatore. Ah, buonasera, come stai? E a una. Ciao Tino, buonanotte, buon tutto, avanti Salvatore. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao i connettori dissaldati delle due antenne. Ho finito di saldare una mezz'oretta fa. C'è nato, adesso mi mancava la prova qui con l'antenna dei 10-11 metri. Sembra che stia andando tutto bene. Confermate, grazie. Sì, sabato qua sta uscendo male, guarda, 27, guarda, meglio che vai in 45 metri abusivo. Ti sento meglio la verità, ma questo lo sai. Che scemo. Oggi Pomponio è scatenato, sicuramente sbronzomi. Sicuro. Qui che l'ho fatto apposta. Perché dove è il e quindi non può entrare in cosa in 4-5 metri. Non per altro. L'ho preso al volo, l'ho preso. Salvatore quasi come sempre fondo scala, a 9.30 di più non va questo smitter. D'altronde siamo vicini. Bene, bene, radio bella corposa. Voglia, tu sei quasi 9.60, figurati. Purtroppo questo smitter è di baracchino, quindi non fa testo. 4 watt. Non sto pisando niente perché mi sono stufato di attaccare, staccare, eccetera. Ehi, vabbè. Io sto andando con 10 watt in questo momento. Naturalmente io dico 4 dell'apparecchio, poi con 50 metri di RG 213 non so quanti ne arrivano all'antenna, di certo non 4. Sì, perché quello è vero. Antonè. Dimmi Carlo, sono qua, tutto per te guarda. Caldo, tutto per me. Con le antenne a che punto sei? Perché mi avevi detto che avevi montato un'altra cosa sul tetto. O ricordo male? Pronto sono. Facciamo la prova. Merle canale 1. Tu dimmi dove vuoi. Marco di la frequenza. Quello sai, a memoria. 46, poi 00, 25 mi sembra, se non sbaglio. Non dargli retta, allora, se hai il passo a 625, metti 446.00625, 006.25. Mi avete detto 50 numeri, allora, frequenza, numero, ripeti. 446.006, poi ci sarebbe il punto 25, ma... Sono U come frequenza, in U. Sono i canali PMR tipo banda cittadina. Ah, K, no, io dicevo HF, devo fare una prova in HF io. Non te posso accontentare, caro mio, non c'ho più il tempo, adesso fa poco me lo riprendo e te contento, andiamo in 4-5 metri, abusivo, naturalmente io, tu mi ascolti, io, cioè, tu mi ascolti e invece non, tu non puoi parlare, quindi parlo io, naturalmente, fra poco, fra un mese. Che fine ha fatto il Kenwood che avevi? Venduto 250. Cos'era? Il 140? Ricordo male. Sì, 80. Sì, 80, sì, vabbè. Avrei avuto i tuoi motivi per venderlo. Già lo vedo. La bolletta dell'ere. Se lo staccavano tutto loro. Per quello che l'ho fatto. Se l'ho capaverato, lo sai. Come bello era. Io ti credo. Vabbè. Ascoltate, allora io faccio un altro giro, che volevo provare l'antenna come funzionava sui 28 e 5. fare delle chiamate su in 11 metri e in 10 metri e casomai ritorno qua. Ok ragazzi. Ma io un controllo te lo potevo dare, però siamo attaccati. Io c'ho l'857, se vuoi. No, siamo fondo scala alla fine. Siamo troppo vicini, proprio tu ed io, vabbè che un pompone sarà la stessa cosa, tra l'altro, comunque, perché il raggio mi sa che è lo stesso. Non sono 200 metri, saranno 300, ma abbiamo le antenne che si toccano. Via, vabbè, poi lì non ci possiamo andare in mano vettoriale, limite, come che poi il buon pompone in 45. Oh, guarda che 28 posso andare, cosa me ne frega a me, secondo te? 28, mi hai detto, quant'è la frequenza? E faccio un salto e guardo cosa c'è di libero. Con cosa ci vai? Col baracchino ci vai? Ah no, 28 ci sei, io lo sai che avete 13, tu 15, ci arrivo tranquillamente io, quindi c'è problema. No, quello è il CV però, la banda USB 28.4, 28.5, hai capito? Non ci arrivi, Ha un corno, 28.615 arriva questo barattino qua, il 2009, già lo sai anche tu, quindi Marco, pensaci, in pratica l'ultimo canale che ci abbiamo, ora. Ok, sento. No, se si allungano adesso, non ci arrivo lì, 615 sì, ma 609. 628? 615. E guarda che sei libero. Non modulare il pomponio, che tu non hai patente amatoriale. Non ne frega, non ho capito. Oh, cazzo, ma ce la fai, cazzo? Mi so tutto, mi vado alle scoposte. Dove vuoi, non ne frega proprio niente, lo sai. Di 28.315 dovrebbe essere... Adesso mi ricordo neanche io, cazzo, la frequenza detta. 6.40, diavolo è. È chiaro che è il 40, no? Metti banda a destra, il selettore delle bande, il 40, no? Ultimo. Se uno dice no, chi è che dice no? No! Scusami, perché dici no? Chi ce l'avete? Oh, c'è uno che dice no. Dimmi perché no, scusami, a quello che sta dicendo no. 315, la verità è, la palica arriva così, ma se sei palica... che palloso che è, no, per quello che è, arriva con la frequenza, che mi dici, no? Spiegalo, lascialo perdere, te l'ho detto che è sbronzo. Ma te mi sono raccontato che è sbronzo quello. No, mi riferivo a te. A me? E tanto c'è tu io, scusa, 315, scusami, a certo punto. Ma lì devi, se vuoi parlare devi parlare in CV doppio, eh? Non c'è da veramente niente la verità, perché se la panica arriva in quella frequenza lì, normale, basta, chiara la cosa, scusa, Marco. Ok dai, comunque funziona tutto, se sto andando qui sulla 27 funziona anche nel resto dello spettro. Bene, signori, lascio, vi ringrazio per le due chiacchierate e vado a fare degli altri esperimenti in HF. Un permesso, salutoni Marco, salutoni Antonello e a chi sta ascoltando. Come va te Marco? E al limite passo a dare un'orecchiata dopo, se mi dici dove vai grosso modo. Cappa, adesso devo scendere giù in 80 metri. Aia, lì è dura, Lì è solo QRM per me, con la 5 ottavi. Cappa, no, io ho il filo, io vado sempre con il filo. Ho ho un rombo praticamente disegnato sul lastrico solare. Un rombo di quattro lati abbastanza irregolari con l'accordatore da palo. Lo trasmetto così. Il tutto sono circa 50 metri di filo. Già, va bene, dai. Fai se provi, poi se ti serve qualcosa siamo qua. Allora, Pomponi non ci può andare, io almeno ascoltare posso, da. Grazie. Sono diventato davvero, mica. Adesso mi sono offeso, cazzo. Non posso andare perché sono svolto. Ah sì, sono svolto, a me sono entrato. Non per quello, pensate che pensavo di falcone, primo. Infatti, Ok, vado. Ciao, salutoni di nuovo, grazie. Ciao, Salvatore. Non ce l'avrai mai, Feitong. Ah no, ti faccio vedere che il petto qui ce l'ho io, tu. Faccio schiattare a te e anche agli altri, te lo sto dicendo. Vabbè, dai, io già ci sono attrezzato, così almeno ci andiamo a fare ciucco ciù in 45 metri. Corrente, cioè, aspetta che chiudo la finestra. Chiudi. Casino però, perché c'è il cavo per il PMR che purtroppo passa dalla finestra, deve restare chiusa, tanto che ci passa il cavo, quindi ogni tanto viene un po' di brezza e mi apre la finestra. Bene, bene, bene. Sono contento però di aver preso il Belden H155. Sembra così, ma l'RG58 già perde di più. E si tratta di fine, l'antenna guadagna poco, quindi se perdi col cavo è finito. E comunque quello spinotto che aveva Fusaro, l'attacco N, era lucidante, non aveva il foro per saldare il centrale, te ne immagini? Era inutilizzabile, boh, meno che non si usi in un altro modo. Ah boh, non so se è entrato, magari cambia le cose. Infatti ho messo, siccome l'antenna l'attacco N, ho messo da N a PL in Milano, e poi l'apparato, le bande allo stesso l'attacco N, anche lì ho messo da N a PL femmina, capito? Quindi la spezione c'ha i PL maschi e basta. Caspita, 10 metri sono arrivati a filo, filo sono arrivati, era meglio prendere 15 e poi nel 15, dai, e non credevo, E pure così, visto, via. Cos'è? Vediamo se entra Antonio Rodioxi. Poi io devo scappare alle 10. Che ora è adesso? Ci meno se un quarto. Mezz'oretta la rimango. 40 minuti, vediamo insomma quando arriva quel pellegrino. Ehi, allora ti hai fregato la verità. Perché? Dove vai a quest'ora? Noi andiamo a fare quella piccola sorveglianza dove, come ti avevo spiegato l'altra volta. Poi facciamo un giro al centro, via Roma, a vedere se c'è pelo. Sì, sì, domani. Via Roma, vabbè, certo, non è sabato oggi. Mercoledì, ma qualcosa ci sarà, dai. Se vuole pelo, già sai, già sei. Tutti i giorni non c'è problema. Se vuole cosa voglia lui. Tu stai dicendo le brasiliane sempre. Eh beh, certo, secondo te. Quindi... Non mi piacciono le brasiliane, io vado solo con la razza ariana. Sei tedesco secondo te, ormai sei fregato con i tedeschi lì. Con la Volkswagen. Poi mi sono indietro, lo sai, mi ha fregato. Io ho letto dello scandalo Volkswagen, ho capito esattamente quale sarebbe l'oggetto dello scandalo. L'ho inculato a tutti, ho fatto passare le auto che costruivano perlomeno, come normale, invece non era assolutamente vero, quindi sono tutte abusive, in pratica non sono omologate per l'Italia, hai capito? Passano l'omologazione, capito? Il discorso è quello, ci devo trovare le macchine, ma il coso, giù indietro. Ma per caso non sono omologate per via delle emissioni di scarico? Esatto, ci sei arrivato. Cioè hanno fatto finta che fossero euro, adesso non so quanto siamo arrivati, e qui ne hanno di più in poche parole. Vabbè, però, per questi sistemucci bastava mettere una marmitta adatta, catalitica, boh, meglio per loro. Non è questa di marmitta catalitica, lo sai, sono di... all'interno, capito? Interno solamente basta, quindi a cambiare tutto, missioni, sono finito da mettere e c'è una roba da fare. Ripeto che ci metto tutte le auto Volkswagen, dalla votazione fino adesso. Ma e chi ce l'ha già, cos'è? Gliela bocciano la revisione, che non è omologata. Esatto, sì. Cazzo, meno male che io c'ho una Opel e non Volkswagen. C'è per tedesca, non cambia un cazzo, Opel, Volkswagen, quello che è, fino, tutto roba tedesca. No, Volkswagen è una cosa a parte, Opel è un'altra, poi la mia è del 2000, o di che anno era, vabbè, non la mia è rodata, l'hanno controllata, ho fatto appena la revisione, e gli scarichi sono, entra nelle norme, capito, non inquina. La revisione l'ho fatta ad agosto, mi pare, no, luglio, fatta. 80 euro. La 2006 comunque si può dire il discorso, eh? adesso vediamo se mi vendo la bicicletta, perché mia madre mi ha regalato la bicicletta, bella ammortizzata avanti e dietro, poi io ci ho messo il sellino con le molle, bello ammortizzato, più copricella in gel, poi ho messo luce anteriore e posteriore, rotori frangenti sui raggi, ovviamente il coso per suonare, no? Un pannello, non investire gente. E poi mi sono reso conto con orrore che non sono più adatto a andare in bici, io non sono più adatto. L'ho pagata a 135, l'ha pagata mamma, e la dava a 100 euro, usata, l'ho scesa dalla macchina proprio quando l'ho portata in macchina, dal champ fino alla macchina, l'ho provata e non... Boh, mi sono trovato abbastanza male. Infatti perché i freni sono buoni, c'è il cambio a tanti rapporti, vabbè, pazienza, sto invecchiando. La vecchiaia è quella, Dica, la vecchiaia è carogna, poi sa cos'è, forse è stato tipo Alghero, non so, una città pianeggiante l'avrei fatto, ma Sassari è tutto da dove sei tu a Preda Mieda, è tutto in discesa, è tutta una discesa, sarò felice. Dante, poi c'è la Margherita, Santa Maria, a scendere, poi c'è il Vialetto, la discesa del Vialetto, tutto è a salite e discese Sassari, no, non va bene, a Alghero ancora l'avrei tenuta, forse anche a Porto Torres l'avrei tenuta la bici, vabbè, pazienza, sei capito? Sono qua, sono 2 minuti, sto a posto, dimmi. Tu lì, dai, la vendo a 100 euro. In più ci ho messo gli accessori che non li faccio pagare. Se la prende bene, il figlio ve la tremi, lo sai il discorso, no? Esce, gatti sull'unghia, oppure niente. Hai visto? Come vai? Sai cos'è? Sono per 21. Il discorso è quello. Beh, se vuole la bici una persona mi dà soldi, se no non ne vede. L'altra che avevo vecchia, io invece lasciarla in casa, nella casa di campagna, come le avevo chiesto, l'ho lasciata all'aperto, e si è messo un telone, l'umidità passa ed è tutto un po' di ruggine, l'ha rovinata lì, però vedi all'epoca 20 anni ci fa ci andavo, che anni fa ci andavo in bici, ma adesso proprio non, una giugana. Bene, bene, te la compri la bici così almeno vai a lavoro in bici. No, non lo faccio proprio dietro la verità. Fidati almeno la patente, se almeno vai in macchina, ed è una grande cosa, io senza macchina sarei morto, Antone, morto, altro che tram. La macchina ce l'ho, il discorso è quello, ce l'ho fatto su Facebook, su io l'altro giorno, ah che è nuovo, quello è nuovo, fa un graffio. Ja, bene, e adesso è un po' la biocco quando mangi, no? Aspetta, vediamo se si sente, dimmi. Adesso sono calmi, aspetta come iniziamo a cantare. Carità, questo credo di essere in campagna, capito? Ma già gli abbiamo preparato una sorpresa. Vedrai che lui viene un infarto. Vanno a buttargli giù tutto. C'è tutto lui, questo che dove parla. C'è tutto lui, qua, là. Il maestro di vita, Come ha fatto un camino abusivo a 3 metri dal terrazzino, una canna fumaria, gli abbiamo fatto una segnalazione al sindaco, vigili urbani, l'ASL, perché è una questione di salute pubblica, il fumo che esce, alla cosa edilizia, no? Abusivismi, eccetera, eccetera, già ce lo cuciniamo bene. Cucina, però, ci deve però. Stavo controllando l'antenna e c'è un punto dove si accorda, lo sai, ho fatto i calcoli, se su questa frequenza di 27 in quattavi d'onda c'è la lunghezza fisica, grosso modo quanto è 7 metri meno 5 ottavi, no? Facendo il conto, circa 7 metri e 6,90 e spiccioli, no? Un'antenna di 6 metri, quasi 7 metri, dove che risuona come mezz'onda? E mi pare che risuona come mezz'onda intorno ai 21 GHz, che è banda mattoriale, o leggermente al di fuori. Le stazioni discendevano tipo 1,3, 1,4, sai, senza accordare nulla. Capendo? Assoluto, arrivo subito. batteria, se non mi addormento prima. Marco. Poco de...